Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. Già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna. Un cane che non sapeva abbaiare. Andò da un lupo a farselo spiegare, ma il lupo gli rispose con un tale ululato che lo fece scappare spaventato. Andò da un gatto, andò da un cavallo e, mi vergogno a dirlo, perfino da un pappagallo. Imparò dalle rane a gracidare, dal bove a muggire, dall'asino a ragliare, dal topo a squittire, dalla pecora a fare beh, beh, dalle galline a fare coccodè. Imparò tante cose, però non era affatto soddisfatto e sempre si domandava, magari con un qua qua, che cos'è che non va? Qualcuno gli risponda se lo sa. Forse era matto? O forse non sapeva scegliere il maestro adatto? Amen. Hey, amen. Hey, amen. Amen. Amen. With the horns now. Amen. With the rhythm now. Hey, amen. Amen, amen, amen, everybody now, amen, amen, amen, amen, amen, amen. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Yeah, yeah. I say, Daddy, help me sing this line one time. Amen. He helped me. Amen. With a feeling. Amen. Amen. Amen. Everybody together now. Amen. The louder now. Amen. Everybody say, amen. Amen. Amen. Amen. Il sole viaggiava in cielo, allegro e glorioso sul suo carro di fuoco, gettando i suoi raggi in tutte le direzioni, con grande rabbia di una nuvola di umore temporalesco che borbottava: «Sciupone, mano bucata, butta via i tuoi raggi, vedrai quanti te ne rimangono!» Nelle vigne, ogni acino d'uva che maturava sui tralci rubava un raggio al minuto, o anche due, e non c'era filo d'erba, o ragno, o fiore, o goccia d'acqua che non si prendesse la sua parte. Lascia che tutti ti derubino. Vedrai come ti ringrazieranno quando non avrai più niente da farti rubare. Il sole continuava allegramente il suo viaggio, regalando raggi a milioni, a miliardi, senza contarli. Solo al tramonto contò i raggi che gli rimanevano. E guarda un po', non gliene mancava nemmeno uno. La nuvola, per la sorpresa, si sciolse in grandine. E il sole si tuffò allora allegramente nel mare. C'era una volta un povero zero, tondo come un O, tanto buono, ma però contava proprio zero e nessuno lo voleva in compagnia per non buttarsi via. Una volta per caso trovò il numero uno di cattivo umore perché non riusciva a contare fino a tre. Vedendolo così nero, il piccolo zero si fece coraggio. Sulla sua macchina gli offerse un passaggio e schiacciò l'acceleratore, fiero assai dell'onore di avere a bordo un simile personaggio. D'un tratto, chi si vede, fermo sul marciapiede? Il signor Tre, che si leva il cappello e fa un inchino fino al tombino. E poi, per Giove, il 7, l'8, il 9... che fanno lo stesso. Ma cosa era successo? che l'uno e lo zero, seduti vicini, uno qua, l'altro là, formavano un gran 10, niente meno, un'autorità. Da quel giorno lo zero fu molto rispettato, anzi da tutti i numeri ricercato e corteggiato. Gli cedevano la destra con zelo e premura, di tenerlo a sinistra avevano paura. Lo invitavano a cena, gli pagavano il cinema. Per il piccolo zero fu la felicità. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days, be merry and bright, and may all your Christmases be white. Di un accento. Per colpa di un accento, un tale di Santià credeva d'essere alla meta ed era appena a metà. Per analogo errore, un contadino a Rò tentava invano di coglier le pere da un però. Non parliamo del dolore di un signore di Corfù, quando senza più accento il suo cucù non cantò più. Thank you.